Sempre con Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso agli Auburn. Eccoci qui, allora sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per la zona lago. Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Continuiamo con del buon hard rock anni 70 di matrice inglese, iniziato con gli UFO ed il brano Rock Bottom dal disco Phenomenon del 1974. Formazione ancora attiva che ha visto in quell'anno l'ingresso del talentuoso chitarrista come Michael Schenker, ritenuto uno dei grandi innovatori del genere. Che ne pensate? Devo dire che Michael Schenker lo conosco per la sua presenza negli Scorpions, fratello del fondatore. Sì, era fratello del fondatore Rudolf, che chitarrista ritmico Rudolf, sì. E, bah, devo dire che è divertente la storia invece che agli inizi Rudolf aveva iniziato a insegnare la chitarra a Michael Schenker, poi i ruoli ovviamente si sono invertiti e Michael Schenker è diventato un chitarrista mostruoso, sì, assolutamente grandissimo. New Rock Generation è il titolo del vostro disco, quale il significato che avete voluto dare a queste parole? Allora, come già anticipato prima, New Rock Generation siamo noi, ovvero la nuova generazione del rock. Con queste parole noi ci vogliamo identificare come vogliamo dare, ecco, far apprezzare e soprattutto far divertire le persone grazie alla nostra musica e riportare un po' il genere rock al suo posto, cioè conta, ecco, insomma. Passiamo ora ai Thin Lizzy. La formazione del compianto Phil Lynott esce nel 1978 con il disco Bad Reputation, da cui ora ascoltiamo l'energica title track. Turn it upside down. Turn Steve Harris degli Iron Maiden dichiara grande amore per la musica dei Lizzy, che lo ha ispirato per il sound terzinato della sua band. Che ne pensate? Sì, sicuramente si può sentire negli Iron Maiden. Tutte le canzoni di Iron Maiden hanno tempi molto veloci e in terzine, si sente subito. Personalmente mi hanno ispirato tantissimo riguardo al modo di suonare e di comporre la musica. Io li ascolto tantissimo, gli Iron Maiden, li adoro. Dunque, i vostri ascolti musicali quali sono e quanto influenzano la composizione dei brani? Beh, direi che basta ascoltare il nostro album per avere la risposta a questa domanda. Noi ascoltiamo, direi, di tutto, musica che va dal rock al metal. Sì, dal rock al metal più pesante, dal blues al funky. E questo sì, certo, ci ha anche, diciamo, un po' ispirato nella composizione dei nostri pezzi, che comunque sono abbastanza eterogenei fra di loro. Se questa influenza, appunto, come dicevi, non è stata voluta di proposito, è stata una conseguenza del nostro ascoltare la musica. Certo. La seconda parte si chiude con i Nazareth, la band scozzese guidata dal cantante Dan McCafferty, dal disco Razzmanazz del 1973, con Broken Down Angel. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco degli Allbirds dal titolo New Rock Generation.